Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Dingo. Planet Dingo. Dingo is on the air. Planet Dingo. Planet Dingo. Benvenuti! Attention. Questo è il pianeta. Certo. Una nuova settimana? Sì. Comprare Dingo sulla DJ Network. Tra le 20 e le 22. Io sono lo sceriffo. Il pistolero. Me lo mangio a colazione. Ma dai! Io sono l'Highlander. Sì. Attention. Giorgi, cosa stavi leggendo? La scossa di Arno! Come al solito questa settimana mettiamo la musica alternative funk, valzer, folk, funk, blowjob, la musica più forte dell'FM. Questa settimana parliamo della moda, perché la moda avanza. Certo. Allora, visto che parliamo di moda, volevo sapere, anche voi seguite la moda? Anche voi avete i Durango? Ma anche voi andate a mangiare da Burghi? Ma che cosa? Anche voi avete la cintura del cerro? No. Anche voi avete le Vans? Hai le Vans, Giorgi? Sentiamo il cibernetico. Chi c'è in linea? Non vi fare i complimenti. Dingo! Pronto, Dingo! Secondo te, io sono di tendenza oppure no? Mi metto le Clark con le calze bianche e mi metto i maglioni lunghi fluorescenti. No. Secondo te sono un paninaro? L'unica moda che puoi avere tu. È la scossa di Arno! No! No! Private Emotion. Che romantica sta canzone. Gli avete fregato un'orecchia alla cuffia. Come mai? Ma come fai a perdere i pezzi delle cuffie? Lui si agita, no? Non capisce più quello che dice, quello che fa. Come mi agito? Se ti sei agitato e hai perso i pezzi. Ti sei staccato una mano. Perché c'è il Claudia Schiff. Sei ormai in putrefazione, allucinante. Allora, dobbiamo ricordare che da oggi fino al 21 di aprile il più veloce a chiamare la linea verde di 105, ovvero 800 105 105, alla fine del disco, quindi adesso, il disco di Ricky Martin, si aggiudicherà non solo l'ultimo CD dell'artista, ma anche la possibilità di partecipare all'assegnazione di un super premio venerdì dalle 12 alle 14 con Fabiana. Uno dirà, ma sì, cos'è, una maglietta? No, di più. Due giorni a Barcellona, tutto compreso per due persone, per assistere al primo concerto del tour europeo di Ricky Martin del 29 aprile. Vabbè, bravo, bravo. Ma come facciamo a fare queste cose? Come facciamo? Signori, come facciamo? Mi smettila. Chi c'è al telefono, pronto? Ciao, sono Giuseppe da Imperi. Ciao, dai, poverino. Giuseppe, ti regaliamo il disco di Ricky Martin, ok? Va bene. Fai una cosa adesso, butta giù il telefono e rifai subito il numero verde che forse riesci a vincere tu i due giorni a Barcellona, ok? Va bene. Va bene, ci stai dentro, fratello? Sì. Sei preso bene? Sì. Ok, hai alzato le mani verso il cielo? Sì. Ok, bravo. Ciao amore, buona giornata. Grazie, ciao caro, ciao ciao. Su Radio 105 con Chiedi quello che vuoi. Ecco, io vorrei chiedere, visto che noi abbiamo l'uomo più ricco e più potente del mondo dall'altra parte del telefono, visto che suo padre è uno che conta abbastanza nel sistema solare, vorrei chiedere a Jimmy se è possibile parlare con suo padre un attimo e chiedergli di chiudere il rubinetto, perché non si può andare avanti così, cioè piove ormai da 15 giorni. Sì, tutti si lamentavano, che dicevano siccità. È vero. Mio papà, siccome uno, diciamo così, sì, è buono fondamentalmente. Certo, beh, giusto, sì. Allora ha deciso di restituire tutto quello che non aveva dato con gli interessi. Ecco. Un po' come fanno i mercati in queste giornate qua, no? Allora le spiego, quando piove così tanto, la gente tende a rifugiarsi in casa, è un classico, no? È vero. Lei è meglio che si rifugia in casa che quando non piove. Lasciamo stare le mie tristezze fisiche. Bravo. Allora, uno stasera, per esempio, si rinchiude in casa e cosa dice? Allora, o ascolta la radio oppure accende la televisione. Che cosa offre questo piccolo schermo? Tanto. Stasera c'è l'imbarazzo della scelta. O ti spari praticamente una purga. Cioè, vabbè, c'è Padre Pio questa sera su Canale 5. Ah, buono. Che bravo. È interessante, però è un po' pesantuccio, voglio dire. Se no, dall'altra parte devi sparare un scemo più scemo. Il processo è lunedì. Ma no! No, quello è un'altra cosa, Leone. Intendevo il film, Leone. Ah, sì, ho capito. Quello con Jim Carrey, presente. Che è un film carinissimo. Però giustamente uno, se vuol far bella figura, tipo noi in radio, cosa dice? Stasera mi sparo Padre Pio. Ma in realtà stasera lo Zoo di 105, tutti quanti, compreso lei, Jimmy, che cosa guarderà? Scemo più scemo. Bravo. Sì, è così. Ma tu dici che è bello questo scemo più scemo. Ma sì, è carino, è una commedia americana. Allora chiama mia moglie. È la nostra vita. È la nostra vita, esatto. Ecco, vogliamo ricordare che tra poco invece all'interno dello Zoo di 105 si apre uno spazio molto intelligente dove il nostro opinionista Leone di Lernia, laureato in puzzologia e scelologia, tratterà male, massacrerà per l'ennesima volta i personaggi televisivi. Massacrerà. Oh. Tra poco. Dirà la verità, insomma. Ecco, io vi consiglio adesso, anche se siete in ufficio e rischiate una cazziata, alzate il volume perché sto disco è veramente il numero uno. Non l'abbiamo mai ascoltato in questi giorni. Mai, mai. Una cassetta da 90 con la stessa canzone. È vero. Si chiama Elisa, progetto italiano, questa è Gift e questo è lo Zoo di 105 su Radio 105 in tutta Italia. Manda cassette a Sanremo per 30 anni con dei testi profondi, con dei testi molto profondi e lo rimbalzano. Questa fa un disco dove dice ti trovo molto attraente, vuoi fare sesso con me? E vende milioni di copie. E poi dice vicino a Sile Raul, vicino a Piazza Sile Raul, c'è un amico mio, sembra che... esatto, però lei vende, vedi? E io mando i dischi a Sanremo quando c'era non Pippo Baudo. Quando c'era Pippo Baudo. Lascia stare. Diamo sigla. Lo Zoo di 105 e la Leone di Lernia Production presentano È ora di dire basta. Basta. Basta. 2 minuti dedicati a chi ha veramente rotto le balle. Leone. Figuriamoci. Leone, chi massacriamo oggi? Oggi massacriamo. Noi vogliamo bene a Mengacci. Oh. Oh. Gran persona, uno che non si tingerebbe mai i capelli. Mai. Poi a dire la parola Mengacci basta la parola, no? Certo. Lui è come Falquis. No! Come no? No, è purgante. È purgativo, sì, è purgativo. Quindi... Io dico, Mengacci, sì. Vai in tutti i paesi a vedere le ricette, cosa sì. mangiano, cosa non mangiano, cosa fanno, ce te ne frega tu, cosa ti interessa a te? Ma scusami. Nel Bronx deve andare. Perché non vai a quel paese di vicino a casa mia, come si chiama, Musalini, sì. dove ci sono le montagne, che ci sono i funghi, sì. sai lì ci sono dei funghi meravigliosi. Ma sono velenosi. E lui quello deve mangiare. No! Il fungo velenoso, così. No, ma pure... sì, perché così si mette una catenina al piede. Sì. Va sopra un porto, sai, sopra un ponte sì. dove c'è il fiume. Sì. Ma va a sciottare a no. quando c'è una barca, con cui si rambla la testa almeno. No, ma poverino! Basta, Mengacci. Solo con lui ce l'hai oggi? No, c'è un'altra ancora. Ah, c'è un'altra. Andiamo. No, chi massacriamo invece? Oggi c'è anche quell'altra lì, quella bella donna. Quella bella donna che fa piangere tutte, non so, l'Argentino, la sì. Spagna, il Messico, sì. Raffaella Carrà. Ma poverina! Caramba. Basta, no! Raffaella Carrà. Leone! Basta Raffaella Carrà, basta, che ia pin c'è ta wende, Raffaella Carrà, comunque Raffaella Carrà è una donna che fa piangere. Piange sempre a fare la gara. E te credo. E perché con la cipolla. Lei pensa con la cipolla. Com'era caramba. Caramba. Oh, lasciamo no. perdere. Va bene, era l'appuntamento dedicato a chi ha rotto veramente le parti sferiche, ma per chiudere in bellezza, chi è che ha veramente rotto nel 2000? Leone di Lernia! Se anche tu vuoi segnalarci qualcuno che ha davvero rotto, manda il tuo fax allo 02-655-1245. Fermo. Mai. Gente che non cresce mai. Qua è arrivato un fax che dice: ma perché guardare Scemo e più Scemo stasera? Non vi basta avere Mazzoli tutti i giorni? Oh, Silvia, grazie amore. Poi salutiamo Luca che invece dice: guarda che questa sera c'è anche IAR Medici in prima linea. Altra bomba. Allora la serata cambia completamente. Beh certo. Traccia mista, tu invece la scheda audio proprio la Leone di Lernia ha tutto il discorso preciso in testa. Però alla scheda audio andata a quel paese, no? E allora quello che dice poi non si capisce, però c'è un libro apposta per tradurlo. Comprati un monitor. Dai. Dobbiamo giocare con i video store blockbuster. Vi facciamo sentire il frammento di una colonna sonora di un film molto famoso. Il primo che indovina di che film si tratta ci deve chiamare al numero verde 800 105 105. Anche se sei famoso. Dai, è facile. Dai, un aiutino, che film era? Nessuno? Io lo so. Dai, che film è, Leone, veloce? L'ultima notte a Barbari. Ma che cosa? Dingo. Planet Dingo. Dingo is on the air. Planet Dingo. Planet Dingo. Benvenuti! questo è il pianeta. Certo. Padingo sulla Digiminator. Come tu sei dalle 2022? Giorgi, cosa stavi leggendo? Ancora. Antico. Basta. Io sono l'Highlander, io sono il pistolero, io sono lo sceriffo, sono un po' tutto. Giorgi, c'è sulla chat. Cioè? Stasera giustamente Giorgi non è di tante parole, diversamente dal solito, perché anche a lui gli ha fatto molto arrabbiare questa cosa. Cioè? Lo so che l'articolo sul noto giornale, noto quotidiano, ti ha fatto arrabbiare. Perché tu Giorgi non lo sai. Ma mi hanno chiamato Bingo su quel giornale. È vero. Bingo. È vero. Sicuramente mi hanno confuso con quell'altro, il clone, che è sulla 205 del 2022. Ma figurati. E a questo proposito volevo sapere cosa ne pensavano gli ascoltatori di questa confusione totale che c'è nelle tre della galassia. Sì. 0265555. 0265555. Hai capito tutto, ma Giorgi? Ma di nascosardo! Ma poverino! Ci pronto, chi c'è in linea? Non mi fare i complimenti perché vengo lì e ti mischio tutti i peli del corpo. No! Otto! Chi sei? Dico? Chi è? Senti, sono Vincenzo. Che cacchio vuoi? Ciao Vincenzo, senti un attimo. Ciao Vincenzo, lo dico io. Ho letto sul giornale, quello lì, che ha scritto l'articolo su quel programma. Ma chi sei tu, scusa? Sono Vincenzo, proprietario di un'altra radio. No! Senti un attimo, ho una proposta da farti. Siccome queste qua non ti apprezzano, volevo offrirti un lavoro in una radio locale che va a bomba a 360 gradi. A me i 360 gradi non mi interessano. No. A me non mi interessano le bombe. No. Mi interessa un'altra arma. Ah sì? Sai qual è? No! Nascosa di Arno! No, poverino! Anche per oggi sono disattivato. Giorgio, secondo te finiremo sotto un ponte? Ma perché? Sì. Secondo te il ponte di Brooklyn? Secondo me sì. Però non quello di Brooklyn. Costa troppo arrivare fin là. Bucinasco già. Lo vedo un traguardo, eh. Ce n'è anche uno a Trezzano, piccolino, se vuole. Grossi problemi per Dingo, eh. Io lo sapevo che aveva la soluzione, gliel'avevo detto. Bella soluzione. Gini Network presenta. Bene! Benvenuti! Bene! Ehi! Bella sigla! Benvenuti! Bene e benvenuti! Benvenuto, uomo di tendenza. Sì. Questo è lo spazio che ti fa viaggiare la mente tra le nuvole. Certo. Oggi, insieme a DJ Pino Master Flash, c'è l'uomo delle luci, c'è Lucifero. Ciao Lucifero. Ciao, anche tu cambia il suono. Ma che cosa? Se anche tu ti senti Rain Man solo perché piove, sei dei nostri. Benvenuto. Se anche tu quando usi la lavatrice metti il programma 11 con centrifuga, e allora anche tu sei dei nostri. Benvenuta. Cosa vuol dire? Se anche tu quando prendi il tram ti metti a picchiare il controllore anche se hai il biglietto, e poi scendi correndo via alla Pietro Mennea, benvenuto. Cosa sei dei nostri. Cosa vuol dire? Questo era il viaggio virtuale di Pino Master Flash. L'appuntamento con le nuvole, il cielo e le dita è per domani alla stessa ora. Ciao a tutti, pezzentoni. Ma pensa a te. Ma che zarro è questo? È un pazzo. Mamma mia. La lavatrice a centrifuga. C'è una sorpresa per il nostro amato Leone di Lernia, che l'altro giorno ha compiuto 84 anni. I due bambini, David e Woody, hanno dedicato a lui una David Mania Mix che si chiama Leone Lernia Mix. Una roba strana, andiamo. David Mania Mix, David Mania Mix, David Mania Mix, David Mania Mix, David Mania Mix. Inizia la David Mania Mix dedicata a Leone di Lernia. Una puzza incredibile. Mettete le maschere antipuzza e andiamo. Ok. Quinta posizione arriva Weapanzo. No. Sì, è incredibile. Quarta posizione, Asciutto. Terza posizione, Sex Machine. Seconda posizione, pesce fritto baccalà. È quello che si mangia tutte le mattine Leone a colazione, quel putrefatto. Che schifo. Numero 2, pesce pesce fritte baccalà. Attenzione, Woody mixa per noi Hello Africa. E sono show! E sono show! E sono show! E sono show! E sono show! Il sudore di leone! Bene, abbiamo scelto la numero zero a Capucano. No! Sai perché ha fatto questo disco? Perché? Lui vuole accappiare il cane. Acchiappare? Perché se lo vuole mangiare. Non è vero! Questa era la numero zero ed era la Devi Mania Mix dedicata al Leone di Lernia per il suo 84esimo compleanno. Auguri. Terminiamo qua. Sei pronto, Woody? Sì, a Mazzoli, a Leone, a Wender e Ziba. Dai, bambini! Bravi, che dispettosi, sono bravissimi, bravissimi. Se pensi che hanno 4 anni e riescono a mettere in piedi una classifica più bella di quella che suona a 105. Altro che DJ per i veri. Questi sono i veri. Immagina l'odore che c'è stato negli studi quando ho fatto una registrazione. Mamma mia. Mettiamo gli articolo 31 qua Paloca su Radio 105. Quando c'è Jennifer Lopez o comunque una cantante carina, lui si chiude in ufficio. Attenzione. Che il programma non piace, non piace. Non ce la facciamo. È difficile così. C'è eh? Un salto di musicalità. Bravo Leone, poi esperto di musica. Grande esperto di musica. Buongiorno venerabile, come sta? Salve ragazzi, come state? Abbastanza bene, oggi è uscito il sole, bello, c'è una bella giornata oggi veramente. Lo so, mi sono stufato di vedere la pioggia, allora ho fatto una telefonata, ho detto ragazzi. Ah. Sì, spegnete i rubinetti perché non se ne può più. Prendete il carretto col cavallo e portate su sto cacchio di sole. Il carretto col cavallo. Lei guardava troppe volte Pollon, secondo me. Mi piaceva molto Pollon. Pollon? Sì. Ma quando lei era piccolo, visto che Pollon la poteva conoscere, l'ha conosciuta e... Fatto tutto. Ecco. Non si preoccupi. C'era qua Jennifer che mi dice rappa rappa. Chi? Jennifer Lopez? Ma sì, perché era abituata con Puff Daddy. Puff Daddy, Puff Daddy. Era abituata con lui che si vede che lui intanto che... Allora, rappava. Rappava, no? Lei come rappa? Faccia un, non so, un piccolo accenno. Vuole una canzone a caso? No, faccia lei, sì. Vuole una canzone di Leone? Dai, prego, faccia. Dice che lasciami stare. Uguale. Senta, un sacco di novità oggi. Ci collegheremo oggi con Dingo. Dovremmo chiamare anche Barnaba oggi, visto che ha appena inaugurato questa nuova linea di taxi. Ci sarà Wender Traffic, insomma un sacco di cose curiose anche sì, oggi. Lei si ricorda un programma di Radio 105 che ha avuto un grande successo che si chiamava Raffica da 10? Sì. Ecco, nel mio ufficio è più o meno così. No. È andata via una, arriva l'altra. When I was very young, nothing really mattered to me. Quella cosa importante nella vita è l'amore. Sai che ho fatto una riflessione su Leone di Lernia, no? Quando uno è bello, affascinante, quando ha successo nella vita, sì, eccetera, si dice bello e dannato. Bello e dannato. Leone di Lernia invece è brutto e datato. No, io sono bello dentro. Ma smettila. Dingo. Buon energia. Benvenuti! Eccolo. Questo è il pianeta. Certo. Fai Dingo sulla Digimile Network. Tutte le sere dalle 20 alle 22. Sì. Giorgi, ti piacerebbe andare al sole, a prendere un po' di sole, a prendere un po' di caldo? No. Sai qual è l'unica cosa che a te ti dà caldo? No. La scossa di Arno! Anche questa sera la musica alternativa cibernetica Sound Folk Sunk Sunk. Cos'è? Questa sera abbiamo un argomento molto delicato. Voi, quando andate al mare? Sì. Il sole lo prendete sopra l'ombrellone o sotto l'ombrellone? Chiamatemi 0265555 0265555 0265555. Che numero è? Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Non mi fare i complimenti, se no ti giuro che ti faccio una bronzatura modello maglietta della Juventus. Hai no! Dico, preso la linea. Che palle, non ti sopporto più, ma cosa vuoi? Ciao, sono Carlo di Giove. Ma senti, ma tu non vai mai in vacanza? Io sì, ma devo farti una domanda. Dimmi. Secondo te, quando io vado al mare, no? E mi metto sotto l'ombrellone e mi addormento al sole, secondo te è normale che la mia fidanzata quando mi sveglio sia sempre abbracciata al bagnino sul pedalò? Ma no! Secondo te mi ama? Sai con la risposta? Sai cosa ti dico? Quando il bagnino torna a riva, sì, con la tua fidanzata, sì, e si mette a urlare, fuori dall'acqua tutti, sì, perché c'è uno squalo in acqua. Eh? Fai una bella cosa. Sì. Vai a farti un bagnetto. No. Sì. Sai perché? Perché? Perché lo squalo avrà una sorpresa per te. Cioè? Sai qual è la sorpresa? No. La scossa di Aldo! No! Lo squalo. George, ti piace il sole? Oddio. Vuoi andare ai Caraibi? No. Vuoi un po' di caldo? E non la beccati sta scossa! No! Ma poverino! Mettiamo in Luna Pop su 105. Cosa è successo? Sei scappata? Data astrale 12 megatron del calendario planetario. Il pianeta denominato Terra è di nuovo in pericolo. Un virus è tornato a popolare il sistema solare. Non esistono antidoti e la popolazione umana è di nuovo in allarme. È tornato il virus Mazzoli. Ma basta! Un denominato MDM. Marco Donatello Mazzoli. Un essere inferiore. Sì. Pezzente e barbone. Certo. Ma con un naso di estremo pericolo. L'unico salvatore dell'umanità è il maestro Jimmy. Ma basta! E il suo allievo David. La saga continua. Dallo studio 1 di Radio 105 a Milano inizia lo Zodi 105. Lo Zodi 105. Lo Zoo è qui. Lo Zoo. Lo Zoo e adesso è qui. Lo Zoo è aperto e adesso è qui. Lo zoo è aperto e adesso è qui. Buonasera Italia, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Salutiamo il maestro Gibba in regia. Oh, uno che guida veloce. Uno che non ascolterebbe mai le partite di calcio quando torniamo dalle serate. E ci fa gallerie. Due maroni così. E le gallerie mette le cassette dei mondiali dell'82. Oh. Ah. Sai che è strano veramente trovarsi qua alle 8 di sera la domenica, noi dello Zoo di 105 che mai siamo stati schiaffati in onda a quest'ora la domenica. Ma dai! Mai nella vita, io dico mai. Secondo voi la domenica possiamo urlare, cioè abbiamo, diciamo così, autorizzazione a essere un po' più allegri o dobbiamo fare come tutta la settimana, essere tristi e pacati, calmierati e un po' navigati, essendo sera? Dai, la domenica forse è meglio così come dici tu. Cioè? Più liberi. Più liberi? Sì. Apriti. Posso aprirmi? Vai. Buonasera a tutti! No! Oh! Allora c'è il Mazzoli che vi parla, il mago Wender sulla mia sinistra. Salutiamo il padre dei padri Jimmy che ovviamente ci verrà a trovare anche stasera. E anche stasera rivivremo il meglio del peggio di un programma che assolutamente non piace a nessuno per 3 ore. Non si sa perché ci fanno fare questa cosa. Lo so. Vi diamo i numeri per entrare in contatto con lo zoo. 800 105 105 il numero verde, ma non fatelo perché tanto non c'è nessuno al centralino. E poi il fax che è 02 655 1245. Lo diamo perché c'è, però in realtà non serve. Mettiamo il primo disco di questa sera e poi inizia il meglio del peggio di un programma che fa veramente schifo a tutti. Andiamo. Lo zoo di 105. Adesso basta, è domenica sera. Ma si canta calmierati, pronti? È vero, è vero. Che si accalmierà. Siete fuori tempo. Buonasera padre dei padri, creatore dei creatori. Buonasera. Uomo più bello e più ricco e in assoluto più simpatico del mondo. Come sta? Posso dire una cosa? Prego. Vaffanculo. No! Così. Perché? Gratis, senza pagare. Grazie. Tornate al via. Vai in galera. Compro i grattacieli viola. Cosa sta dicendo? Monopoli? Cosa sta dicendo? Senta, allora, è domenica sera e guardi caso la direzione, per dimostrarci che in realtà il programma non è vero che non piace così tanto, ci ha detto: andate in onda la domenica sera, riempite quelle 3 orette di nulla, mamma, di flusso, e regalateci 3 ore di divertimento puro. Esatto, ma soprattutto, siccome stasera non c'è neanche una partita qua in uno stadio vicino, no, di nome Inter Juventus, e io sono qua. Assolutamente. Ma sa qual è la cosa bella? Sì. Lei lo sa che in realtà il terzo piano, tutti insieme, sono su. Sono tutti di sopra e c'è un teatro apposta. Sì. Si chiama Teatro Zoo. E lì praticamente presidente, direttore, vice, epice, puce, pace si siedono lì e ascoltano a tutto volume il programma Lo Zoo di 105. Secondo me è meglio che ascoltiamo Dingo. E anche secondo me. Radio Jimmy Network presenta 5, 4, 3, 2, 1. Dingo. Buongiorno. Lo scopo della tua missione è che tu ti scapperi ogni 3 secondi. Basta! E di lanciare le caccole per la galassia. Certo! Dingo is on the air. Planet Dingo. Planet Dingo. Benvenuti! Ecco. Questo è il pianeta. Certo! Planet Dingo! Sulla di Jimmy Network. Sì. Dalle 20 alle 22 tutte le sere. Scusate. Androidi. Centauri. Sì. Highlander. Cosa stavate leggendo? Niente. Antichi. Giorgi, ti vedo in formissima questa sera come sempre. Chi c'è sulla chat, Giorgi? Abbiamo venito, lo so, 105. Ma non è vero. Che cazzo vogliono? No, no! Ci fanno le parolacce. Non è vero. Sono, ci prendono per il culo quelli dello 105. Non è vero. Ma tanto ne rimarrà soltanto uno. La legge sono io. Questa sera vogliamo dare spazio alla musica alternativa cibernetica da Centauro. Certo. Perché voi ci dicono, sai Dingo, non dai mai spazio alla musica, non dai mai spazio di qua, non dai mai spazio di là. Che cazzo volete? No! Cioè, questa sera mettiamo la musica alternativa di Planet Dingo. Abbiamo un suono particolare, la musica alternativa da noi era sempre prima, il punk cibernetico, alternative sound, sì. Music sound. Ma cosa vuol dire? Questa sera abbiamo un DJ, un artista veramente eccezionale, si chiama Franco Sensation. Ancora? Basta. Devo dire che lui veramente è fantastico, è un DJ dalla parlantina e tecniche eccezionali, un animatore e trascinatore. Questo è Franco Sensation che con il CD raccoglie gran parte della sua vita. Sta leggendo la copertina. Non so cosa ti dico. Giorgi, cosa ne pensi di questa musica? Dai, di nascosterlo! Ma perché? Possibile che devi sempre pensarla diversamente da non me? Non ha detto niente! Cioè, una volta che ti dico una cosa tu la pensi diversa da me, incredibile. Non è vero. Sentiamo la musica alternativa sulla Digimi Network di Franco Sensation. Andiamo. Vai, Ando. Non posso ritornare. Ma che disco? In mezzo a tanti inganni, molto tempo se n'è andato. E cosa mi è restato di tutto il tuo amore? Cos'è? E cosa hai ricevuto? Che tristezza, dolore. Oltre che essere un artista sound, sì? Un artista alternativo. Ma quale? Che bello da vedere. Ma che? Franco Sensation. Sapete cosa vi dico? Queste state le parole dell'artista. Sì. I sogni qualche volta si avverano. Sì. Questo mio CD è un'umile dimostrazione. Sì. Ascoltate queste canzoni. Sogna, ama e fai del bene, ricorda. Ma che cosa? E quindi noi vogliamo sapere da voi, anche sulla chat, quindi con Giorgi. Sì. Ma sentiamo la telefonata cibernetica. Chi c'è in linea per sapere cosa ne pensi di Franco Sensation? Non vi fare i complimenti. Ma non ancora. Perché ti giuro, vengo lì, ti tiro un pugno in faccia, che ti mischio i piedi. Ma va! Chi sei? Dingo! Ciao, sono Carlo! Ma tu prendi sempre la linea! Ma chi cacchio? Hai la linea preferenziale? Non lo so, guarda, c'ho un culo pazzesco! No! Vabbè, che cacchio vuoi? Senti, dico, è incredibile, Franco Sensation, c'è troppo bello, giorni, mesi, anni, ma e passo sul mio jet, è bellissimo, guarda, sai che cosa poi? È talmente bravo l'artista! Ho capito, ma tu hai telefonato perché cacchio vuoi? Perché, guarda, grazie a quel disco, quando lo ascolto, faccio una cacca bella morbida. No! Grazie Dingo, grazie Franco. Scusa un attimo, grazie, scusa. Grazie. Vuoi stare un po' zitto? Sì. Sei un Highlander prima di tutto? Sì, credo, sì. Sei un Centauro? Sì. A te vuoi dire che la musica alternativa di Dingo ti fa andare in bagno? Mi fa... No! Sì, però bravo, è bello. Sai qual è l'unica cosa che ti fa andare in bagno a te? Che cosa? La scossa di Anna! No! E anche se mi hai messo la musica alternativa, sì, ci serve qualcuno che fa lo stupido. Anche per oggi il Planet Dingo disattivato. Giorgio, vuoi dire qualcosa sulla musica alternativa? Mi sto toccando. No! Giorgio, vuoi dire che la musica alternativa a te ti fa un altro effetto? Giorgio, sei mai stato con una donna? No. Ah, non sei mai stato? No. Pensavo fossi stato con una donna sola. Sì. Ma puttana? No. Giorgi, neanche quelle ti vogliono. Ma no. Una scossina? Sì. Piccolina? Dai. Oh. Giorgi. Ci aiuta. No! Su Radio 105, all'interno dello Zoo di 105, il meglio del peggio, tutte le domeniche ormai è ufficiale. Dalle 8 alle 11 riviviamo tutte le cretinate che abbiamo combinato durante la settimana. Però c'è da dire una cosa. Cosa? Che questa settimana siamo stati molto più calmierati rispetto alle altre. Sì. Quindi abbiamo tante cose grazie all'uomo più intelligente, più colto, sì, e anche più bello e più buono del mondo, perché lui ogni giorno crea dei prodotti nuovi. Sì. Bravo. Però siamo stati un po' troppo calmi questa settimana, non trova? Sita. Annunci il disco, silenzio. Ah, dobbiamo fare tutto a bassa voce. Faccia come l'annunciatore della Rai. Ah, così triste? Vada. Senta, allora possiamo dire che tra poco sentiranno lo spot della Jimmy Airlines che ha preparato per l'estate robe da paura? Ok, lo sentiamo tra poco. Intanto mettiamo le All Saints. Questa è Pure Shores, dal film del fidanzato di Camilla DiCaprio. Venite su da lì. Chi? Alle All Saints. A noi? Sì. Si può? Sì. Ok. Con il Mazzoli, con il Mago Wender, con la mucca, con Gianni Morandi in testa, in regia, il nostro Gibba e poi ovviamente il venerabile Jimmy. Vi ha sentito Sun Kids con Change, la Rise Up, ma noi dobbiamo fare una pausettina. Cos'è? Oddio. Lo Zoo di 105. Salve. Torna tra poco. Sì. Cosa ride? Ma Mazzoli. Forse no. Ma no. Spin Doctors con Two Princes su Radio 105, domenica sera con il meglio del peggio dello Zoo di 105. Chissà perché io capisco al volo quando sta per entrare il venerabile, eh? Chissà come mai. Il padre dei padri, il Mazinga Z. Cosa glielo fa pensare? Che cosa? No, perché sento subito il rumore del telefono. Ah? Me ne accorgo, l'orecchio sensibile io, lo sai? Ah, sì? Abbastanza. È sicuro di avere l'orecchio sensibile? Sì, ho tutto sensibile io. Provi un attimo a allontanarsi dal microfono. Andiamo. Sei sicuro di sentir bene? Sì, benissimo. Sì, facciamo una prova così. Cioè, vuole che mi allontani totalmente? Sì, una prova tipo dall'otturino. Si allontani. Prova a uscire proprio dalla radio. Provi a ripetere cosa dico io. Vediamo se ci arriva, eh. Guardi che ho sulle cuffie, quindi non c'entra il microfono. No, vediamo se capisce. Vediamo. Vediamo, sì. A Stardarsa, cosa ho detto? A Stardarsa. Ha sbagliato, a Stardarsa ha detto la zeta. Vado ancora più lontano. Vediamo. A pitasta ha detto. No, a pitastra. Ma non è vero. No, vada, l'ultima prova. E poi mi definiti. Vado più lontano. Sono contro il vetro. E Vaffanculo ha detto. Bravo. Dobbiamo pubblicizzare una nuova campagna, appunto, della Jimmy Airlines, linea aerea del vero pezzente. Ascoltate che cosa si è inventato il nostro venerabile Jimmy. Vai. Ultima chiamata per il volo AZ Uber Gran Persona 6000 della Jimmy Airlines. La Jimmy Airlines, sì. La linea aerea del vero barbone, certo. Ha colpito di nuovo. Quest'estate c'è un motivo in più per volare con la Jimmy Airlines. Pensate, tutti i voli di tutte le durate costano solo 6.000 lire. Ma come? E quest'anno le innovazioni sono... minchia. Esagerate! Ogni aereo Boeing 747 sarà a disposizione di una sola persona. Ma come? E sarà interamente allestito a suo piacimento. Cioè? Vasca idromassaggio. Sì. Letto matrimoniale di varie forme. Sì. Piscina riscaldata. Ma dove? Sala biliardo. Smere. Bocciofila interna con anziani radiocomandati, no. Con cui giocare per ore, no. Senza mai stancarvi. Bar interno con meretrici molto disponibili. Campetto da calcio con giocatori veri della tua squadra preferita, con cui potrai confrontarti in un'emozionante partita di calcio. Certo. Mini pista da golf e di go-kart. Ma dove? Per passare qualche ora di divertimento puro. Ma i nostri aerei, sì. Prevedono anche una notte davvero speciale. Sì. Infatti, dopo esserti divertito per tutto il pomeriggio, sì. I nostri Boeing di notte, sì. Si trasformano in un night club davvero speciale. 30 meretrici saranno a tua totale disposizione, con tanto di pianista e finto parcheggio con Rolls e Ferrari per creare il vero ambiente sciccoso che tanto desideri. Ma cosa dici? E se sei donna, il tutto diventa al femminile. Cioè? 30 maschioni muscolosi in tutte le loro parti, no. Saranno pronti a soddisfare le esigenze che da tempo, no. Non riesci a soddisfare. Vola anche tu con la Jimmy Airlines, sì. E dirai, cazzo che vuoi? No! Jimmy Airlines, le tue nuove ali, pezzente. Ma lei si rende conto? Non è possibile che con 6.000 lire una sola persona viaggi su un Boeing, come dice Monesi? Dai, da solo! Pensi che c'è qualcuno che mi ha detto, mi sembra un po' caro. No, ma come? Gli ho chiesto, scusi, come si chiama di cognome? Come? Mazzoli mi ha detto. Non è vero! Andiamo avanti, tra poco torniamo con il meglio dello Zoo di 105, adesso mettiamo In The Shoes, Christy McCall. Questo è il meglio, pronto. Del peggio dello Zoo di 105 su Radio 105. Chi è pronto? Scusate, amici. Chi è? Marco. Sì, sono un ascoltatore. Come hai fatto ad andare in onda che non c'è il centralino? Non te lo posso spiegare. C'è uno che lavora ai piani alti che mi conosce. Ti ha passato in diretta. Sì, chi sei, scusa? Sono Lucio. Lucio da dove? Non te lo posso dire perché sono in segreto. Sì, parli un po' come padre Ralfi Rosario, comunque. Marco. Sì? Ascolta. Dimmi. Ma secondo te io posso fare la radio? puoi fare la radio? A me piacerebbe tanto. Sai cos'è? Che hai la voce un po' troppo navigata e calmierata, forse andresti bene per la notte, non lo so. Ma mi piacerebbe tanto lavorare alla radio, soprattutto tipo in un orario tipo quello che fai tu. Ho capito, no, guarda, non lo so, dovresti chiamare magari durante la settimana e ti facciamo parlare col direttore, ok? Ti salutiamo, ciao caro, ciao Lucio. Noi adesso... Pronto? Vai a fare il pomeriggio! No! Questo. Ma chi è? Ma non lo so. Dobbiamo farvi ascoltare quello che è successo giovedì all'interno dello Zoo di 105 con il maggiordomo di Jimmy, che praticamente è diventato il primo autista di una nuova linea di taxi, ovvero la Tax Jim, si chiama Catanzaro 4. Catanzaro 4, sì. Sì, con una Mini Cooper va in giro lui, una sì, Mini già, Mino, una roba del genere. Sentiamo cosa è successo. Lo Zoo di 105. Pronto? La genere fare e guardi il mare che cade come una valanga nel cielo. Barnaba! Pronto? Salve Barnaba! Where? Metzig! Provi a dire bene il mio nome, Mazzoli! Quanto è bello volare, Metzigan! Vabbè, lasciamo stare. Senta, va! Sento, ho saputo che Jimmy ha fondato una nuova linea, sì, di taxi che si chiama Tax Jimmy. Certo, e certo, che con sole 6.000 lire... La porto dovunque, in tutta la città! È incredibile! È incredibile, meno male che mi hanno dato la mia macchina nuova, la Mini Mino! Ah, non c'è più la Giulia? No, Mini Mino, che è grande, porta un sacco di gente! Ma che grande! È un water con le ruote! La riconosci subito, perché quando arriva tu, sì, senti... Il rumore da fuori. No, non deve parare, per favore. Comunque, Barnaba, quando lei mi vuole chiamare. Sì, come si chiama il suo codice? Catanzaro 4. Certo, Catanzaro 4. Comunque, sono, senta, in macchina già con un cliente. C'è un cliente? Clint, saluta me cica, è Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood in macchina? Andava in giro col cavallo nel West. Sì, guarda, quello faceva... Lo facevano a Cinecittà e ci prendevano per i fondelli. Ma non lo dica! Ma mi scusi, devi svelare tutti i segreti del allora, cinema. C'è un disgioco qua, quasi americano, un drogato. Ma che cosa? Se lo vuoi salutare così, so, almeno lo fai contento, va. Barnaba. Te lo passo, va. Mi passa Clint Eastwood su 105, ragazzi, questo è uno scoop, eh. Pronto? Hello? Hello, Mr. Clint Eastwood? Yes. How are you? Mazzoli from Radio 105. This jockey, yes. Vaffanculo. No, Clint, mi scusi, Clint se l'ha offesa il ragazzo, è drogato. Ma che cosa? Ma ha offeso lui. Comunque aspetti, ma che guarda, siamo... Allora, ma io la devo salutare. No, ma aspetti che io gli devo far vedere un po' Milano. Sì. Allora, Clint, quello è il Duomo. Il Duomo, sì. Quella è la Torre Eiffel. Ma come Torre Eiffel? Che sopra ci stanno gli Eiffel 65 che cantano di blu, dipinto di blu. Ma che cosa sta dicendo? Scusi un attimo, Clint, quando guido non devi guaggiare intorno, perché sennò mi fai arrabbiare. No! E mi sporca pure la macchina di sangue, incredibile. Io, basta, oh. Barnaba, lei con noi ha chiuso. Perché? Lei non può portare in giro gente sul suo taxi. No, non rida, io non sto scherzando. Lei ha sparato un attore famoso. Oh. Lei con me ha chiuso, la saluto, arrivederci, basta. Andiamo. Cosa ha fatto? Si è ammazzato. Barnaba! Pronto? È incredibile, questa macchina è proprio a prova di proiettile. Ma vaffa, ma per... Barnaba! Ma guarda te con lo Zoo di 105. E adesso? Niente. Ah. I Subsonica, un gruppo che quando canta dal vivo non ha 12 microfoni tutti scocciati insieme. Che gran persone. Si chiama Tutti i miei sbagli. Sì, una domanda. Dica. Ma lei ci sta dentro? Io ci sto dentro. Ma di bella. Di brutto, di bella? Sì. Oppure con l'asinella? No, lasci stare l'asinella, che è una parentesi da chiudere, mai da aprire. Ah? Allora, questa è la seconda ora dello Zoo di 105. Stiamo ascoltando il meglio del peggio e andiamo a risentire. Senta, il grande servizio. Taxateci, perché qua ci hanno tolto la televisione. Sì. Ci hanno tolto internet. Ci hanno tolto i monitor con i vari programmi televisivi. Siamo seduti, siamo seduti sui puffi della Coca-Cola che abbiamo trovato in corridoio. Non è vero. Quindi voglio dire, mandateci almeno dei fax. Esatto. Allora, 02-655-1245, ma adesso sentiamo il servizio del 12 aprile, quindi di 3-4 giorni fa, con Lilli Rossetti. E che servizio? Oh! Se lo fa Lilli Rossetti. Certo. 105 News, edizione... No! Ehi raga, come vi butta oggi? Ci state dentro di bella? Se anche voi siete presi bene, cantate con me. È vero, son paninara. Ma basta. Viva il Moncler. Antica. Io le Timberland. Certo. Ehi galli di Dio, voi che ogni pomeriggio vi tirate giù nel gargarozzo un bel paninazzo, seduti sulla vostra zunda Pincentro. Sì. Oggi mi trovo in piazza San Babila con altri giornalisti. Galli di Dio, certo. Ho un bel paio di Durango, cintura di El Charro, piumino Moncler, calze Burlington e jeans della Stone Island. Lilli. Sono troppo regolare. Sei antica. Ma tu Mazzoli, cosa vuoi sapere di moda? Perché? Tu che ti metti i pantaloni neri con le pants, le spadrias con le calze bianche e vieni in radio al pomeriggio con una Renault 5 GT Turbo bianca con un alettone talmente grosso che ci vanno sopra con lo skateboard. Non è vero. Tu che arrivi sgommando con lo stereo a palla ascoltando Elettrica Salsa da mixato con People from Ibiza. Ma non è vero. Tu che hai sempre lo stecchino da denti dietro l'orecchio sinistro e il pacchetto di sigarette arrotolato nella manica della maglietta. Non è vero. Tu sei un Gino. No. Non ci stai dentro e non sei regolare. L'unico posto che va bene per te è la vagina. No. Cosa stavi leggendo? Antico. Lilli. Basta. Oggi non faccio il servizio. Perché? Io vado dai miei amici Galli di Dio al Burghi e poi vado a fare due penne con lo Zunda. No. Col mio spittinzio. Certo. Ciao Pirla. Lilli. Pronto. Pirla. A fra poco. Deficiente. Cos'è sta roba? Pronto? Cos'è sta cassa? Pronto? Falle entrare. Cos'è? Falle entrare. Cos'è? Tranquillo amico mio. Pronto? Chi è? Scusi? No, chi è lei? Mi scusi. Sono Vittorino. Vittorino da dove? Dell'Hollywood. Sì, mi conosci? La discoteca. Mi conosci? Conosco tutti dell'Hollywood, ma non ho mai sentito parlare di un Vittorino. Come non conosci a me? No. Vuoi il numero? Di chi? Il mio. Ma per far che cosa? Non ti preoccupare. Dammi il tuo numero allora. 105 50 50. Non ho capito. Vuoi il numero? Sì. Pronto. Io sono amico di tutti all'Hollywood. Ah sì? Conosco a tutti. Sì. Sono praticamente amico. Sì. Di quello che parla e di quello del bar. Di quello che? Praticamente io sono amico di quello che fa le luci. Sì. Che è parente di quello del bar. Ah. Che è molto amico di quello che fa la porta. Ah, ho capito, è tutto un giro. Quindi tu entri gratis, bevi gratis. No, pago per bere. Ah, paghi? Sì, io sono gratis, entro. Ah, ho capito. Però faccio bere grazie agli altri. Ho capito. Io pago. Perché ci hai chiamato, Vittorino? Volevo sapere se volete venire all'Hollywood. No, grazie, guarda. Volete venire? No, stasera no. Ah, io conosco a tutti, eh? Sì, ho capito. Ah, l'altra volta è venuto l'altra volta. E Vani, il pilota di Formula 1? È entrato. Sì. Lo potete dare, io non privé. Non lo facevano entrare. Ma figuriamoci. Sì, ci ho detto solo i Vittorini entra. Amico mio, lo conosco di base. Vuoi il numero? No. 0017122212. No. Ma non può dare il numero di Vai in Onda. Amico mio. Ma poi 0. Amico mio. Cosa? Sono Vittorino. No, ho capito. Dell'Hollywood. Abbiamo capito. E quindi volevo dire che è venuto dall'altra volta. Ha preso da via forza da bere. Ah sì? Ma a un certo punto però gli scivolato il bicchiere. Gli scivolato il bicchiere il Vine? Praticamente è caduto il ghiaccio per terra. Caduto il ghiaccio per terra? È scivolato e battuto la testa. È scivolato e battuto la testa? Doveva saltare 30 Gran Premi. No! L'ho medicato io. No! L'ho salvato. Come? Ho comprato una bistecca fuori, subito. Sai il chiasco che c'è fuori che fa gli hamburger? Sì. Gliel'ho preso a crudo, gliel'ho messo in testa e è passato tutto. Passato tutto? L'ho salvato. È incredibile. Complimenti. Vuoi venire? A fare? All'Hollywood. Ancora? No. Conosco a tutti, eh? Abbiamo capito. Vuoi entrare? Non voglio entrare. Vuoi il numero? Io entro sempre all'Hollywood. Vai, metti, lasci il mio numero. No. 0-7-5-5-5-5-5-5-5-5. Non si capisce. Signor Vittorino, dobbiamo salutarla. Come? Sono Vittorino. Da dove? All'Hollywood. Basta. Andiamo, va. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Qui è domenica sera, insieme allo Zoo di 105 che è al completo, a parte Leone, ma comunque Leone non è che faccia. Sai cos'è che di Leone che mi piace? Che lui quando va via a cambiare aria, sì? Poi torna sempre con la stessa aria a marcia. Perché lui è putrefatto all'interno, no, capito? Capito? Dobbiamo mettere un disco nuovo adesso. Senta, io lo so che lei ha chiamato per un semplice motivo, perché suo figlio, come dice lei, Misa. Mio figlio è l'unico, credo uno dei pochi bambini al mondo che è capace di misare. Mixare si dice. Perfetto. Vuole dire mixare? misare. Ecco, fantastico. C'è una classifica che va in onda un giorno sì, un giorno no, all'interno dello Zodi 105, che ascoltate dalle 4 alle 6, dal lunedì al venerdì. Questa classifica si chiama David Mania Mix, che è una presa, secondo me, per i fondelli della classifica di Radio 105. Assolutamente. Ma come no, è il nome perché stesso. Lei vuole screditare Radio GB Network, perché sa benissimo che ha 70 milioni di volte. Ma non più diciamo di tutte le radio nazionali italiane messe insieme. Ma non è assolutamente vero. Sentiamola, va. Radio Jimmy Network presenta la David Mania Mix. Certo. La classifica dance di Radio Jimmy. In studio David, in regia il DJ Woody. David Mania Mix. Sentiamo. David Mania Mix. David Mania Mix. David Mania Mix. David Mania. Sigo uguale. Sì? Sei pronto? Io sono prontissimo. Allora vai con le ruote d'acciaio. Ruote d'acciaio. Ok. Inizia un'altra David Mania Mix. Alla quinta posizione abbiamo Nelly Vanilli. No! Ci stanno dentro! Sì, sì. I due baby adesivone. Cantavano sempre loro, eh? Sì, proprio, proprio loro. Questi sono gli amici di Ralphie Rosario. E anche di Simba. Attenzione, arriva un nuovo disc jockey, si chiama Claudio Cecchetto. Ma non è nuovo. Questo ragazzo farà strada. Sì, sì, è quello che imita Geppetto. Certo. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Sì, sì. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Giue. Vai Rudy. Dormire. Salutare. Vai fratello. Vai fratello. Da. Camminare. Nuotare. Sciare. Sprai. Lo sai che Claudio c'ha una tenda al posto della frangia? Ma non è vero. Attenzione. Un remix di Leone di Lerga. Sono gli Snap. Sì. Sì, sì. Questa è Acchiappo Cane. Ricordiamo che ci sarà legato al disco un libro per capire le parole. Sì, la diarrea. La diarrea. Seconda posizione, un nuovo disco per l'estate. Si chiama Estallaca. Ma è picchissimo. Sei meglio di Stefano Secchi. Certo. Bene, arriviamo nella zona calda. Numero uno, Umberto Tozzi. No. Numero 0 dedicata a Mazzoli da Budi. No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Mazzoli. Grazie. Con questo noi ti salutiamo. Certo. Ci vediamo la prossima volta sulla David Mania Mix. Ciao. Ciao cari. Facciamo una cosa, mettiamo un disco che è meglio. Quel sì, bastardo va. Di Woody lo ammazzo. Meglio un parolone. Che ascoltate ogni domenica dalle 8 alle 11. Che bravo, che bravo. Bravo che sei proprio uno speaker. Tu si fa quei programmi proprio i classici della radio. Bravo, lei deve fare un po' di annuncio e disannuncio. Sei sprecato così. Voi state dicendo che io sono adatto a fare tipo l'ABC della radio? Sì, così. Un disc jockey navigato e calmierato? Sì, tu hai un flusso. Cioè, 10 flusso. Secondi entri e dici ok, uno in 10 secondi cosa dice? Ecco il prossimo disco. Bello. A proposito, guardi che è così che piace la radio. Non sto scherzando. Guardi, a me, me lo dice. Guardi che le radio. Io che ho inventato tutto il mondo. Cioè, io dico, le radio che crescono di ascolto sono così. E infatti. Bene, benvenuti. Era il disco D, adesso ascoltiamo il disco Da. È così che funziona. Ah, quindi, grazie, quindi un complimento, grazie. Quindi da D a Da? Eh? Un blu da Budim da Budim. Bravo. guardi come vengono le idee per i dischi. Hai visto? Ho capito, è incredibile. Vogliamo trovare un altro proverbio, magari ce ne viene uno anche a noi. La lasciamo perdere. Siete... A proposito di navigato e di navigazione, sì. Voi da oggi potete navigare in internet, sì, con la mia nuova linea fantastica, incredibile, che si chiama GBNet. Cioè un provider più che altro. Scusi? Un provider. È un suo amico? Ma no, no, si chiama così. Lo conosco. Senta, lei ha ideato un provider e neanche lo sa. Comunque, ah, grazie al suo sistema di internet, da quanto abbiamo capito dallo spot, ah, sì, sì, si potranno addirittura toccare le immagini che, sì, che si vedono sullo, sì, schermo. Scusi un attimo. Sì, prego. Ma scusami, Dorato? Con chi sta parlando? Ma io vorrei sapere una cosa, ma tu... Sì, ho capito, è progettato. Ho capito. Ma che cazzo è sto provider? Dai! Caro navigatore di internet, sì, sei stufo di passare ore e ore in una rete telematica lenta e spesso inaccessibile? Abbastanza. Connessione in corso. Passa una nuova rete. Sì. Passa GimmyNet. GimmyNet, il nuovo modo di navigare in internet. GimmyNet ti regala un personal computer Pentium 10 con processore Jimmy Inside. Jimmy Inside. Un piccolo omino che vivrà nel tuo computer e ti permetterà di fare operazioni senza sfiorare la tastiera del computer. Nella rete di GimmyNet non dovrai accontentarti di vedere delle semplici foto, no, ma immagini vere, certo, grazie a microtelecamere nascoste in tutti gli angoli del mondo. Sì. E se sei appassionato di siti porno, no, grazie a GimmyNet potrai vedere le tue meretrici preferite in azione sullo schermo del tuo computer.